quelli di Pane, Burro e Rock and Roll già se la sono presa coi Beatles. Ehi Giuditta, non aver paura. Ah, quelli erano i famosi Beatles in italiano. Già se l'erano presa con i Led Zeppelin. Ah, quelli erano i Led Zeppelin col kazoo. E adesso se la prendono con gli AC/DC. Ah, questi erano gli AC/DC originali. Sì, ma venerdì glieli facciamo con la bocca. Accidenti. Maestro, la pillola. No, è che una zampa del tavolo mi è finito sull'alluce. Direi di difficoltà sufficiente la domanda di quest'oggi. Easy. Difficoltà easy la domanda, sì, del test di stamane. Non saprei. Chissà. È una domanda particolare. Chissà in quanti anni ha azzeccato oppure no. Prendendo spunto dal romanzo Jack Frusciante uscito dal gruppo, vi chiedevamo: John Frusciante in quale band suona? Forse nei Red Hot Chili Peppers? Ma io direi proprio di sì. Risposta esatta! Era la soluzione A. Non ha mai suonato né nei Jane's Addiction né nei Soundgarden. Scopriamo come curiosity di, sì, di quest'oggi che la storpiatura Jack Frusciante al posto di John Frusciante è dovuta a causa di problemi con diritti d'autore che si sarebbero potuti avere tra la piccola casa editrice del libro di Brizzi, ovvero Transeuropa. La Transeuropa di Ancona, e Red Hot Chili Peppers, come lo stesso Brizzi ha dichiarato. Come altra curiosità segnaliamo che durante un'intervista lo stesso John Frusciante, parlando del romanzo Jack Frusciante uscito dal gruppo, si è meravigliato delle poche righe dedicate a lui all'interno del libro, pensando che fosse una biografia a lui dedicata. Sì, c'è stato un misunderstanding, comunque c'è stata un'incomprensione. Un po' c'aveva ragione. Beh, sì, c'è stato un errore di traduzione, forse. Comunque il libro è stupendo, soprattutto per essere il libro d'esordio di un diciannovenne. Ecco, e mi raccontava lo stesso Brizzi. Medaglia. Prego, continui. Sottolineo. Naturalmente. Anch'io vorrei. Cosa le raccontava lo stesso Brizzi? Che l'ha riscritto un sacco di volte. Cioè il responsabile della Transeuropa di Ancona gli ha chiesto di riscrivere continuamente lo stesso libro, non so, 3-4 volte, di aggiustarlo, e quindi insomma, pur essendo naturalmente talentuoso per la scrittura e la letteratura, ci ha lavorato su un bel po'. È comunque un gran bel risultato a 19 anni scrivere bene o male un piccolo capolavoro. Medaglia. Anch'io voglio medaglia. No. Chili Peppers, my friend, senza frusciante. Questo è Navarro, mi scrive anche uno via SMS. Però l'ho scelta io la canzone, però, perché mi sembrava in tema, nel senso che era un brano romantico, senza frusciante. Parlano di amicizia, capito? Secondo me il brano era dedicato a lui. E poi mi pigliava male, stamattina volevo sentirmi My Friends dei Red Hot Chili Peppers. E quindi ce la siamo puppata insieme. Questa è Pane, Burro e Rock and Roll. La colazione in diretta dalle 7 alle 9 del mattino, targata Rock FM. Sono le 8 e 38 minuti primi del 13 febbraio 2008, l'anno della svolta. E come al solito sono nell'imbarazzo dell'ultima mezz'ora. Tentativo di salutare almeno qualcuno di voi. Continuano le proposte di come potremmo suonare i Cure. Qui addirittura propongono i Cure fatti con fisarmonica e testo in francese. Via mail uno proponeva i Cure in ligure, in genovese. Ci penseremo, ragazzi. Vi prego, trombetta anche per me, che oggi ho il primo orale in università. Joe sta in una botte di ferro. Mentre felicitazioni allo zio Mike, è nata la nipotina, non Michael, la Mike, il nostro radioascoltatore. Chiediamo agli ascoltatori un aiutino per compilation di ballate rock per cullarla. Bella Mike, una bella idea, dovremmo organizzare un CD lento per neonati. Io avrei tra l'altro anche un paio di carion composti dal prode Mr. Pinguino, che non vi ho mai proposto, ma prossimamente carion per bambini rock, ve li faremo sentire, ne approfitterò. Mentre ne approfitto, eccoli lì subito, avete messo un brano dei Red Hot Chili Peppers senza frusciante. E però scrive anche che, però, che spaccaballe che sono, Luca. No, scherzo, però la motivazione la stavo dato, l'ho data, ecco, la stavo dato. Saluto invece infine Lillo, che pensa di toccarci e invece no, perché scrive: ma voi che fate tanta ironia sulle imitazioni delle altre radio, cosa mi dite di Francè, che è molto simile al Riccardino di Mario Marenco della trasmissione Indietro Tutta di Renzo Arbore? Lillo, cioè, mai avremmo pensato di puntare così in alto. Se ti ricorda Indietro Tutta, oh, lo pigliamo come un complimentone qui a Pane, Burro e Rock and Roll, eh? Viva Francè! E anche Bowie. Yeah. Occhio che ci sono novità, eh? New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. And Gene Genie loves Jimmy Stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. got a gown. You got a gown. Gin Gini, Duca Bianco, David Bowie, Pane, Burro, Rock and Roll, resta sul pezzo nell'ultimo blocco della puntata 182. Abbiamo una vecchia conoscenza in linea. Pronto, Yuri? Pronto, buongiorno. Il nostro camionista rock di riferimento, che spesso e volentieri si è occupato delle donne nude. Il momento pruriginoso. Aspetta, lo ridico che ho sbagliato. Il momento pruriginoso di Pane, Burro e Rock and Roll. Occhio però, Yuri, perché ci tuffiamo nell'occhio del ciclone quest'oggi. Prima delle donne nude per alzare l'ascolto. Ricordiamo che la rubrica di Yuri non vuole dare cattivi insegnamenti per i deboli che vengono travolti da fantasie erotiche che diventano dipendenza e sfociano nella violenza. Le foto nude che Yuri fa vedere sono per rimirare il miracolo dell'altra metà del cielo. No, era solo per dire che non... Va bene, niente, era per Moretti, perché abbiamo fatto un casino, ce l'hanno tutti su con Moretti adesso, perché ha fatto una scena hard, ma le nostre non sono hard. No, sono soft hard. A favore della riproduzione, diciamo. Sempre. Una roba così. Il nostro camionista Yuri, che è stracolmo in questo 2008, anno della svolta, di calendari con signorine nude. Cosa gli ha preso in questo 2008? Mi hai detto che è bello ricco. Sì, cioè, è difficile la scelta, perché sono molte foto da bollino rosso. Ricordiamo che sono calendari doc da camionisti, cioè arrivano direttamente dai garage, ce li hai solo tu. Sì, no, solo io. Tutti i camionisti, fine, ormai tutti Italia, quelli ce li hanno. Non ci siamo che mai. Sono donne, diciamo, non famose, ma buone. Normale. Esatto, un po' come andare in trattoria, no? Anziché andare al ristorante di lusso, che a volte uno preferisce, noi sicuramente sì, perché è di nicchia. Non ci siamo mai occupati del tuo camion, ce le hai le scritte davanti illuminate? No. Non c'è niente. Camion bianco? Hai capito? Che signore. Va bene, andiamo con la signorina di quest'oggi. Cosa ci hai scelto? Sento il mese di giugno, perché io spero che arrivi anche il caldo. Bravo! Perché del freddo mi sono sei rotto. Hai fatto bene. E allora Miss Giugno del calendario 2008 di Yuri, vai! Bionda, allora, Mora. Bionda. Mora. Bravo, siamo all'aperto. All'aperto la location. Sì, la location è all'aperto. Esatto. Dietro a un muro di pietre. Sì. E lei praticamente Mora. Sì. Tutta nuda, solo con un paio di mutande rosse. Che si vede tutto. Sì, trasparenti, ecco. Con delle appliche a margherite. Ma guarda che tenerezza, che dolcezza in queste immagini. Le margheritine, ok, andiamo. Ricordo che Yuri ha un fiuto particolare per la taglia. Quinta finta. Abbondiamo in questo giugno. Quelle finte ma spudorate. Perché... Siamo in due palle da pallamano. Attaccate. Due palle mediche. Esatto. Yuri, no, grazie mille per la signorina di giugno. E ci sentiamo presto a Pane, Burro, Rock and Roll. Siamo in Romagna. Ciao caro, arriviamo presto. Ciao. Sì, il prossimo raduno surrealista è sicuramente in Romagna. Mentre accennavo, testa attitudinale collettivo il 1° di marzo qui al garage, non mancate. Caro Frick, reggiti sulla tua seggiolina perché stiamo tornando a parlare di lui. Un genio, un musicista con le mani. Lo scorrigione con le mani. Esattamente. Jerry Phillips, lo abbiamo scovato su YouTube. E caro Frick, l'altro giorno ci ha suonato You Shook Me All Night Long. Ricordiamo che Jerry suona schiacciando tra le mani e facendo uscire delle piccole scoregge, tutte intonate. Intonate. E quest'oggi ci propone, ecco, è già partito un classico della storia del rock. I Queen, in uno dei brani forse più belli della storia del rock, Bohemian Rhapsody. Esatto, suonato con le mani, con le scoregge che si possono fare con le mani. Non c'è trucco, non c'è inganno. Jerry Phillips è sempre seduto sul suo divano cheap. Non ha espressioni, ma suona veramente bene. Senta. Sono commosso. Ogni tanto ha l'espressione facciale, ma poca, pochissima. Segnaliamo anche che il nostro eroe Jerry Phillips, bravissimo, ha ricevuto i complimenti di Brian May in persona, che gli ha scritto sul suo sito e gli ha detto: bravo Jerry, ottima interpretazione. Senta qui. Estensione incredibile. Attenzione che arriva il momento. Un passaggio da virtuoso. Sentiamo come lo fa. Ah, sì. Ovviamente usa delle basi tipo da karaoke in sottofondo e sopra suona. Ha un microfono, sembra, vicino alle mani. Ha un'estensione veramente impressionante. Sono in estasi che un uomo possa produrre tanta bellezza scorreggiando con le mani. Attenzione, dovrebbe arrivare là solo in questo momento. Glielo leggo dal sopracciglio lievemente arcuato. Let me go. Armonizza, Non abbiamo fatto nulla, non c'è trucco, non c'è inganno. Se non ci credete, digitate Jerry Phillips, lo troverete, il grande musicista con le mani, scoperto da noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Dopo la rassegna musicisti con la bocca, scorreggiate con le mani. Quest'uomo suona da 38 anni canzoni con le sue mani. Tra l'altro ho ordinato il DVD, Frick, appena mi arriva te lo regalo, te lo prometto. Grazie, ci contavo, sono un suo ammiratore, viva Jerry Phillips. Costa solo $15.99. Praticamente 16. Lo trovate su andmusician.com, lui è Jerry Phillips, lo ringraziamo anche per questo oggi, per questa incredibile versione di Bohemian Rhapsody. Grazie Jerry di esistere. Grazie, io mi unisco con le mie misere mani per un applauso, mi unisco alla sua fatica per testimoniare la nostra ammirazione e il nostro applauso. Just amici bloccati in tangenziale, che pur nel traffico si sentono un po' soli. I polisti, so lonely. Grazie per aver ascoltato la puntata di Pane, Burro e Rock and Roll numero 182. Ma questa è la fine. Mio caro amico, è la fine. Ciao da Mister Trombetta, da Spadino, da Roberto Fricantoni, da Isaac Rizzi, dalla redazione, dall'Ariele. Ci si risente domani dalle 7 alle 9, se lo vorrete. Cosa c'è domani, Spadino? Gli ACDC con la bocca li facciamo venerdì. Domani che giorno è? Giovedì. Altre sorprese. La terza puntata di Zorro andrà mai in onda oppure no? Porca paletta, questa è la domanda inquietante. Vabbè, noi comunque ci siamo, eh? Vi lasciamo in compagnia di Marco Garavelli fino al mezzodì. Pane, burro e rock and roll. Your break, rock breakfast. Colazione rock. Come back tomorrow. Pane, burro e rock and roll. Grazie per averci iscritto all'SMS e alla mail. Ci ritrovate su radiorockfm.com. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. Non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ricordo velocemente agli amanti di Jerry Phillips, il nostro musicista con le mani, lo scorreggione con le mani, che tra qualche minuto pubblicheremo il filmato su myspace.clo.com/paneburrofm, che è lo spazio di Paneburro Rock and Roll su MySpace, dove ci trovate anche tante altre stupidate della trasmissione di culto del mattino di Rock FM. Grazie per essere stati con noi, a domani!